A ciascuno il suo, di Raffaella Calandra. Il biglio di Taranto è sulla ruga che attraversa il viso giovane di Gabriella. Teme per quel mutuo a fatica ottenuto prima del matrimonio, ma è preoccupata anche per la salute della famiglia che va a costruire. Il dilemma di Taranto è in un'inchiesta che sta scoperchiando una rete di silenzi, decenni di omissioni e connivenze all'ombra dell'Ilva, ma che ha finito per far traballare 5.000 posti di lavoro. Sotto i camini della più grande acciaieria d'Europa si sta consumando un feroce braccio di ferro tra poteri dello Stato e diritti costituzionali. Da una parte la salute, dall'altra il lavoro. Da una parte il decreto del governo per riportare in attività il polo siderurgico, autorizzando l'azienda a proseguire la produzione, dall'altra, nello stesso giorno, il no del giudice al dissequestro degli impianti. In mezzo il destino di una città. Sono fidanzata con un ragazzo, un operaio dell'Ilva, e noi abbiamo in progetto, insomma, di sposarci nel prossimo giugno, e lei capirà, insomma, la nostra preoccupazione sia riguardo al lavoro sia riguardo all'ambiente in cui andremo poi a costituire una famiglia. Si vive comunque con il patema, perché non sappiamo cosa succederà, e oltretutto secondo me non è giusto far vivere come delle vittime, insomma, chi semplicemente lavora in quell'azienda. Abita ai Tamburi, Gabriella, il quartiere più vicino all'acciaieria, sfondo di tutte le sue finestre. Qui l'inquinamento dell'Ilva è stratificato sulle facciate nere dei palazzi come sui davanzali coperti di polvere. Approva, Gabriella, la bufera sollevata dall'inchiesta, perché conosce troppe famiglie, ci dice, costretti a fare i conti sia con la miseria che con i tumori, e perché forse solo ora si comprende perché per tanto tempo tutto è rimasto uguale. Basta guardare, forse, l'elenco dei beneficiari delle elargizioni della famiglia Riva, proprietaria dell'azienda, o quella rete di politici, funzionari, tecnici e pure di un prete che per il GIP Patrizia Todisco era eccezionalmente accomodante verso l'azienda, perché tutti hanno interessi e tutti ora responsabilità, è l'accusa di Don Nino, da 40 anni parroco dei Tamburi. Non possono continuare a imperversare sul nostro territorio con questi atteggiamenti quasi menefreghisti, perché già una ventina di anni fa abbiamo fatto diverse dimostrazioni sull'inquinamento. Non siamo stati ascoltati. Ha letto quelle intercettazioni in cui si dice due tumori in più? Una minchiata. Ridicolizzare o giocare sulla morte degli altri, questo è gravissimo. Qui, solo la mia parrocchia qui, assiste oltre 300 famiglie, con il pacco che viene dato. La bombola del gas, noi siamo ancora a questo punto. Poi è inammissibile che una famiglia povera che vive con 280 euro al mese debba pagare le medicine a 151 euro 5 fiali. Io, per poter avere uno sconto, l'ho presa nella Città del Vaticano. Io credo che un provvedimento dovrebbero farlo, cioè permettere alla gente che abita su Tamburi di non pagare le medicine o di pagarle con uno sconto. Di tutta questa rete di persone che gravitava intorno all'Ilva e che adesso è finita all'interno dell'inchiesta, lei che idee se ne è fatto? Dà un po' forse anche la spiegazione del perché così tanto tempo le cose sono rimaste tutte uguali qui? Noi non abbiamo avuto dei politici in gamba. Quando abbiamo chiesto conto di che cosa avessero fatto quelle risorse che erano state promesse per l'ambiente, non c'è stata data nessuna risposta. Cioè, con l'Ilva penso che avessero degli accordi particolari. Io stesso ho messo il salone a disposizione per i vari deputati, Vendola, che sono venuti a parlare, però poi non si è realizzato nulla. Dopo anni di promesse e di altrettante omissioni, dopo due ondate di arresti e sequestri di aree dell'acciaieria e dei prodotti, ora un decreto autorizza la società Ilva a proseguire nella produzione e nella vendita per tutto il periodo di validità dell'autorizzazione integrale ambientale e introduce un garante e nuove sanzioni in caso di mancata applicazione. Ma la battaglia intorno ad un'inchiesta e al destino di una città potrebbe essere tutt'altro che conclusa, come temono pure gli operai davanti alla portineria A. Abbiamo apprezzato tutti, perché è una soluzione che dovrebbe sbloccare di fatto la possibilità a noi di continuare a lavorare e allora allo stesso tempo poter fare gli adeguamenti necessari. Quindi voi temete che la magistratura a sua volta possa in qualche modo far qualcosa per impugnare questo decreto? Sinceramente, personalmente sì. Che non sia tutto finito, purtroppo, sì. Non si potrà lavorare a pieno regime. Quindi diciamo fiduciosi ma non del tutto rasserenati. No, ma quello assolutamente no. Comunque c'è da aspettare 2 anni e quindi c'è da aspettare che comunque i lavori vengano effettuati e completati. Quindi comunque non è che vi sentite al riparo? No, ma assolutamente no. Sui muri nel centro della città compaiono scritte contro i Riva, la famiglia per antonomasia di Taranto, che è tutt'uno col suo polmone d'acciaio che l'ha blandita e assecondata nella sua ascesa, dicono le inchieste, respirando negli scarti, e che ora segue invece più di una spy story la caccia degli inquirenti ai loro tesori nascosti e al figlio Fabio, tuttora latitante. Il decreto ora sembra allontanare la bufera e la tensione esplosa nell'occupazione della direzione. Dove lavori? Al RIL. Allora. A me non mi ha chiamato nessuno, io potessi pure cercare di andare a rientrare con un bagno. Qua o rientrano tutti o nessuno. Però noi non possiamo. O tutti o nessuno. Da qua o basta una persona che non rientra nessuno. O tutti o nessuno. Una tensione palpabile anche nel fronte del porto, compattato durante le ricerche del giovane egruista Francesco Zaccaria, sbalzato via dalla tromba d'aria e trovato in fondo al mare. Abbiamo scioperato per venire a morire, lamentano i colleghi. Per tutti loro era stata una conquista tornare al lavoro dopo la disattivazione del BEGE del giorno prima e dopo l'allarme rosso chiusura, e ora si sentono ancora più insicuri. È pericoloso, no? Poi la sicurezza te la fai tu, che sei il conduttore della macchina e capisci quando è il momento, no, di spostarti, voglio dire. Secondo lei le condizioni di sicurezza qui ci sono tutte? Beh, non credo, proprio fino alla fine no. Perché ultimamente si sballavano gli anemometri delle macchine. È un rilevatore di velocità del vento che fa capire l'intensità della potenza del vento, no? Sono bypassati per non farli scattare l'allarme e quindi si bloccano, tu non vedi più niente del vento. Io e la macchina mi trovavo nel capannone qua, che è stato divelto tutto completamente, ho cominciato a vedere le lamiere che iniziavano a volare e le gru che incominciavano a girare vorticosamente su se stesse. Siamo usciti dall'ufficio e praticamente intorno a noi non c'era più niente, c'era solamente gente che gridava piena di sangue in faccia. La mensa era distrutta, gli uffici distrutti, le macchine capovolte, gente che correva col sangue in faccia, gente per terra, sembrava la guerra. Ho visto che qualche volta viene chiamato salva Ilva, semmai è salva ambiente, salute e lavoro presso l'Ilva di Taranto. Questo caso è la dimostrazione plastica, direi, per il passato degli errori reiterati nel tempo e delle incoerenze di molte realtà, sia imprenditoriali che pubbliche amministrative, che si sono sottratte nel corso del tempo alla regola della responsabilità e dell'applicazione della legge e del rispetto della legge. E non possiamo ammettere che ci siano contrapposizioni drammatiche tra salute e lavoro. Per il premier Mario Monti, il decreto appena approvato dovrebbe proprio bypassare quel bivio drammatico di Taranto tra salute da una parte, lavoro dall'altra. Ma il nodo è tutt'altro che risolto, perché non pochi sono i dubbi di incostituzionalità che potrebbero essere sollevati, perché nuovi esposti sono stati depositati in procura e perché in molte altre direzioni sta andando l'inchiesta per ricostruire la rete di connivenze che ha permesso all'Ilva di inquinare in silenzio per decenni. Tanti i nomi, anche importanti, citati nelle intercettazioni, tante le strade da percorrere ancora. Un decreto che blocca un provvedimento giudiziario non è il percorso da seguire per risolvere una questione così delicata, obietta Maurizio Carbone, segretario dell'ANM e tarantino, che replica anche al ministro dell'Ambiente Corrado Clini, secondo cui gli ultimi sequestri avevano bloccato l'iter del risanamento. solleva molte perplessità il voler vanificare l'effetto e le finalità preventive di un sequestro attraverso un decreto legge. Il sequestro preventivo è stato emesso alla magistratura e tra l'altro confermato in sede di riesame sul presupposto della sussistenza di un attuale e concreto pericolo per la salute di un'intera collettività. Credere di superare questa situazione di pericolo, così come attestata da questi provvedimenti emessi da più organi giudicanti attraverso un provvedimento di legge, lascia evidentemente molto perplessi sul piano giuridico e sul piano del rispetto dei valori e dei beni costituzionali che sono in ballo in questa vicenda così complessa. Questo vuol dire che secondo lei i suoi colleghi tarantini potrebbero in qualche modo impugnarlo? Si vedrà quando si conoscerà il testo evidentemente del decreto. Evidentemente i colleghi interessati verificheranno le eventuali rimedi per rispondere a questo decreto laddove ce ne dovessero essere le esigenze. Quello che attualmente possiamo dire è che i provvedimenti della magistratura vanno impugnati nelle sedi opportune attraverso il rispetto delle forme procedurali e superarli e vanificarli, soprattutto di fronte a reati così gravi che mettono in gioco la salute dell'intera collettività con l'intervento normativo, è cosa davvero anomala che fa riflettere. Questo intervento del governo per decreto, quindi ad una settimana quasi dagli altri 7 arresti chiesti dalla magistratura tarantina e con dei sequestri ulteriori, anche dei materiali considerati frutto di reato, è stato da molti considerato un intervento a gamba tesa. Dall'altra parte però il governo ha ribadito come fosse in ballo la salvaguardia di un importante centro produttivo nevralgico, la seconda acciaieria più grande d'Europa, quale l'Ilva appunto. Ecco, ma questo non era evidente anche ai magistrati? In un certo senso arrivare ad un provvedimento di questo tipo vuol dire secondo lei che non è stato, che è stato sottovalutato l'impatto economico anche che un intervento come degli arresti e dei sequestri potesse avere su un'azienda così delicata? Questo di uno stabilimento così grande, il più grande siderurgico d'Europa, tenuto conto delle ripercussioni che avrebbe avuto sul piano funzionale, sicuramente è stato un provvedimento sofferto. Ma evidentemente c'erano e ci sono e sono state confermate nelle varie fasi processuali delle situazioni di grave pericolo per la salute di un'intera collettività, e di fronte a questa situazione di pericolo la magistratura aveva l'obbligo di intervenire, e se non attraverso quelli che sono gli strumenti previsti dalla legge, e quindi attraverso il sequestro preventivo. La stessa Costituzione tutela l'iniziativa economica privata e il diritto al lavoro, ma questo deve svolgersi e avvenire nel rispetto della sicurezza, della dignità e della salute del lavoratore e dell'intera collettività, e questo bene primario deve essere tutelato, e la magistratura intervenuta aveva l'obbligo di intervenire per tutelare questi beni. E sicuramente non si doveva arrivare a una situazione del genere, ma questo è il risultato di omissioni, di mancati di controlli che sono avvenuti nel tempo, e non si può sacrificare un bene primario come il diritto alla salute di fronte alle sole logiche produttive ed ad esigenze e logiche di profitto. E la situazione è sicuramente delicata, ma non può essere risolta con delle scorciatoie o con un decreto legge che va a superare quelli che sono e a vanificare gli effetti di un provvedimento giudiziario. Questo è l'aspetto, questo è il problema, la città ne siamo consapevoli, ma va affrontata con serietà e soprattutto evitando i conflitti, con la massima collaborazione tra tutte le istituzioni. Ecco, oltre alle omissioni, quello che l'inchiesta in questo momento sembra far emergere è anche tutta una serie di connivenze di una rete ben più ampia che potrebbe aver garantito, diciamo, il perpetuarsi della situazione e dell'Ilva anche con tutto il suo contorno di inquinamento per tutti questi anni. Ebbene, però il ministro Clini ha obiettato che questo secondo sequestro e questi nuovi arresti in qualche modo hanno impedito quella bonifica che invece era stata avviata, a suo dire, e indicata dopo i primi arresti della scorsa estate. Questo sequestro, secondo lei, dottore, ha impedito appunto l'inizio dei lavori di bonifica? Ma guardi, in realtà proprio questo sequestro dimostra che nei 4 mesi che sono trascorsi dall'emissione del decreto di sequestro preventivo, che ricordiamo è del luglio scorso, non è stata fatta nessuna attività di di bonifica né di messa in sicurezza a norma degli impianti. Anzi, l'azienda ha continuato a produrre esattamente come prima, nonostante l'esistenza di un provvedimento di sequestro preventivo, tant'è vero che il sequestro dell'altro giorno è intervenuto su un ingente quantitativo di prodotto finito che è stato appunto lavorato a seguito della produzione avvenuta in questi 4 mesi in costanza di un provvedimento di sequestro. Questa credo che sia la vera problematica e la questione al momento. Chi vuole davvero salvaguardare e coniugare il giusto diritto al lavoro e il diritto alla salute ha oggi la responsabilità di investire i capitali necessari per mettere a norma l'impresa e l'azienda e lo stabilimento. Questo al momento l'azienda non ha dato seria dimostrazione di voler fare ciò. Anzi, in questi mesi a tutt'oggi si sta sottraendo l'esecuzione di provvedimenti emessi dalla magistratura, sia in provvedimenti cautelari reali che personali, e questo nei fatti dimostra una poca volontà, a dir poco, di voler attenersi alle regole, di voler finalmente rispettare le norme ambientali e rendere ecocompatibile lo stabilimento. Cioè lei faceva riferimento al fatto che Fabio Riva è ancora latitante e appunto a quello che lei aveva già detto poco fa, cioè che in questi 4 mesi nulla era stato fatto per iniziare la bonifica. Questo decreto, secondo lei, con la creazione di un garante per la messa in atto delle prescrizioni, soprattutto del rispetto dell'AIA, dell'autorizzazione ambientale integrata, è una garanzia sia sufficiente? L'auspicio è che si riesca a fare quello che da troppo tempo non è stato fatto. Ben venga l'AIA, sicuramente il fatto che il Ministero abbia in poco tempo varato una nuova autorizzazione ambientale che ha riuscito anche gran parte delle prescrizioni indicate dai provvedimenti della magistratura indica sicuramente una volontà da parte del governo di ottenere un risultato che poi è quello che vuole anche la magistratura, di coniugare il diritto al lavoro e il diritto alla salute, ma per la realizzazione di questo obiettivo è necessario che tengano ampie garanzie dall'azienda che voglia investire i capitali necessari per fare le opere di messa a norma dello stabilimento, e questo fino ad ora non è avvenuto. L'augurio è che possa effettivamente avvenire, ma deve tutto ciò avvenire in tempi rapidi, nel rispetto delle regole e nel rispetto della salvaguardia della salute dei cittadini. Ultima domanda è questa ed è un po' più tecnica. Si chiede, come ad esempio fa il presidente dei Verdi Bonelli con un esposto appena presentato in procura a Taranto, il sequestro dei beni della famiglia Riva anche in qualche modo per, diciamo così, con quelli immaginare di finanziare anche i progetti di risanamento. Non le saprei rispondere, né posso risponderle a questa domanda. Ripeto però il concetto, noi respingiamo l'accusa che la magistratura addirittura con i propri provvedimenti abbia rallentato questo percorso di bonifica. È esattamente il contrario, solo dopo l'intervento della magistratura, diciamo purtroppo solo dopo l'intervento della magistratura, si è data un'accelerata a cercare di costringere l'azienda ad mettere in sicurezza e a norma lo stabilimento dopo anni di inerzia e di omissioni. Ora speriamo che questo possa avvenire, ma quello che mi preme ancora una volta sottolineare è che ciò non può avvenire scavalcando dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria che al momento e allo Stato indicano l'attuale esistenza di un pericolo concreto attuale per la salute. Staremo a vedere cosa conterrà questo decreto legge, speriamo che l'azienda possa, anche se in ritardo, finalmente intervenire e impegnarsi seriamente per dare una svolta ecocompatibile a Taranto. Sarebbe doveroso, sarebbe necessario, noi ce lo auspichiamo anche come magistratura. Per riascoltare tutte le puntate di A Ciascuno il Suo, il sito radio24.it, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce e sul blog Storiacce. Seguiteci anche su Twitter, l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, al prossimo weekend.